Siamo qui per raccontare una storia. E queste sono le bandiere che la Libia ha adottato dal 1951 in 60 anni di storia indipendente. Ma la storia che andremo a raccontare noi incomincia prima. Questa canzone è del 1911, la cantava la bella Gea della Garisenda e serviva ad infiammare i cuori degli italiani che andavano in guerra contro l'impero ottomano. L'impero ottomano, all'inizio del secolo scorso, dominava su un territorio ancora vasto nonostante le pesanti erosioni subite nei 200 anni precedenti. Dominava anche in Tripolitania e in Cirenaica, un Eden vagheggiato dai molti supporter della guerra italo-turca. Dopo 50 anni di unità d'Italia, i patri confini erano diventati stretti. Gli anni 10 sono segnati dalla crescita di consapevolezza delle classi operaie ed il paese è attraversato da scioperi e agitazioni. L'allora presidente del Consiglio Giovanni Giolitti cala la carta della guerra imperialista, incontrando il favore dei poteri forti dell'epoca. Che poi sono i poteri forti di oggi e di sempre. L'alta finanza, in primis, la neonata industria, la politica, che senza troppe distinzioni di colore e schieramento si accodò ad appoggiare l'impresa. Già nel 1907 il Banco di Roma aveva aperto filiali a Tripoli e iniziato a finanziare opere e infrastrutture che richiamavano la manodopera italiana. Nell'affannosa e tardiva rincorsa per la conquista di un impero coloniale si apre una caccia ad una terra dove spedire gli italiani che in patria fanno la fame. Una terra per i migranti, in definitiva, ma che anziché venire chiamata con nomi estranei possa continuare ad essere chiamata patria. Una terra fatta da tre regioni. Tripolitania, Cirenaica, Fezzan. Una terra che anche nel nome che le si vuole dare, Libia, così l'avevano chiamati i romani occupandola 2000 anni prima, perpetuasse una sorta di rivendicazione di diritto su quei territori. Tra le voci a favore dell'intervento, una si levò più limpida delle altre, quella di Giovanni Pascoli, proprio lui, il poeta del fanciullino. Nel celebre discorso di Barga, proprio facendo leva su quel presunto diritto maturato grazie agli avi, ebbe a pronunciare queste parole di acceso nazionalismo e razzismo a proposito di quella che era in procinto di divenire terra di conquista. Una vasta regione bagnata dal nostro mare. Come se fosse solo nostro. Una vasta regione che già, per opera di nostri progenitori, fu abbondevole d'acqua e di messi e verdeggiante d'alberi e giardini. Ed ora, da un pezzo, per l'inerzia di popolazioni nomade e neghittose, è per gran parte un deserto. Là i lavoratori saranno non l'opre mal pagate, mal pregiate, mal nomate degli stranieri, ma nel senso più alto e forte delle parole, agricoltori sul suo, sul terreno della patria. Non dovranno a forza il nome della patria abiurarlo, ma apriranno vie, coltiveranno terre, deriveranno acque, costruiranno case, faranno porti, sempre vedendo in alto agitato dall'immenso palpito del mare nostro il nostro tricolore. Troveranno come in patria ogni tratto le vestigia dei grandi antenati, anche là è Roma. Poche le voci che si levarono contro l'intervento. Quella di Gaetano Salvemini, che battezzò la Libia uno scatolone di sabbia. E dal suo punto di vista torto non aveva, visto e considerato che il territorio libico era allora per il 90% desertico e in gran parte ignoto. E? Colpo di scena. Ad alzarsi contro la guerra fu anche la voce di Mussolini, allora socialista, che organizzò un'imponente manifestazione di piazza in Romagna. Anni dopo sarebbe stato di tutt'altro parere. Il solenne armiamoci e partite, che si sollevava dagli ambienti della finanza, della politica e dell'industria, si risolverà in 3.431 morti, migliaia di feriti e una catastrofe finanziaria. Ma non era finita. La conquista della Libia si incompirà in 20 anni e costerà ancora moltissime vite umane. Le popolazioni locali non ci stavano attendendo a braccia aperte. La pace di Uscì del 1912 mette fine allo scontro italo-turco, anche se il territorio libico non sarà un territorio pacifico. Ma ecco che, appena fatta una pace, tornano a tuonare tamburi di guerra. scoppia la prima guerra mondiale. Un diversivo al problema coloniale. Che risveglia la resistenza libica. La ragione per cui in un territorio così vasto, circa 6 volte l'Italia, ma assai meno densamente popolato, l'Italia coloniale ha non poco filo da torcere, ha un nome, Senussia. Una confraternita fondata un secolo prima da Mohammed Ben Ali Senussi. Oltre a stabilire la rigorosa osservanza dei precetti religiosi, la Senussia intende preservare il Nord Africa dall'intrusione europea e quindi combatte la dominazione spagnola in Marocco, quella francese in Tunisia, in Algeria e quella italiana in Libia. In Cirenaica è Omar El Mukhtar il leader della Senussia, leader carismatico innanzitutto, che all'alba dei 60 anni suonati riesce ad organizzare una guerriglia che resta a lungo invincibile. Si snoccioleranno altri 20 anni di guerra, in cui i territori verranno guadagnati e persi. 20 anni segnati da firme di accordi e capitomboli diplomatici, incertezze e giochi di potere. 20 anni di atrocità, di rastrellamenti, omicidi, distruzioni, campi di concentramento. 20 anni ingloriosi per sedare la rivolta di genti che non ne vogliono sapere del nuovo straniero. A metà di questi 20 anni l'Italia entra nel ventennio nero. Il fascismo sale al potere e l'impero coloniale, un tempo sprezzato da Mussolini, diviene nei proclami una fonte a cui abbeverare demagogia e megalomania. Ma la Senussia non indietreggia, continua ad attaccare e resistere. Mussolini, che è diventato il duce, deve risolvere la situazione. La risposta è un uomo forte, deciso, anzi, spietato e carico d'ambizione, Rodolfo Graziani. E pensare che aveva iniziato studiando da prete. Non bastando le operazioni militari tradizionali a sconfiggere Omar El Mukhtar, Graziani adotta una strategia tanto feroce quanto efficace, l'isolamento della guerriglia. Primo. Circa 100.000 persone sono deportate in campi di concentramento. Stando all'anagrafe, la popolazione indigena della Cirenaica passa dalle oltre 200.000 unità del 28 alle 142.000 del 31. Secondo. Fa costruire un reticolato lungo tutto il confine egiziano, tagliando in questo modo ogni rifornimento di armi e cibo. E intrappola perciò, letteralmente, i guerriglieri in una rete. L'11 settembre... Non quell'11 settembre, ma l'11 settembre di 80 anni prima dell'11 settembre. Omar El Mukhtar viene catturato e qualche giorno appresso, al termine di un processo burla, condannato a morte e impiccato. Mossa indubbiamente scorretta. Atto di inciviltà e vigliaccheria. Non si elimina così un nemico che si è battuto con valore. Fallo di Graziani su assist di Mukhe, che in un telegramma ordina perentorio la condanna a morte. È francamente politicamente un autogol. L'esecuzione di un capo anziano e valoroso indebolisce l'immagine dell'Italia presso i paesi arabi. Scriverà 30 anni dopo lo storico Enrico De Leone. Omar El Mukhtar, la cui effigie si appuntò sul petto Gheddafi nel 2009, quando posò il piede sul suolo italico. La terra di Libia, desertica in gran parte e spazzata dal vento, non era esattamente la terra propizia alla coltivazione. Ma l'opera di colonizzazione italiana viene proprio finalizzata all'agricoltura. I terreni incolti e privi di legittimo proprietario diventano demanio pubblico in cambio di un compenso ai possessori, divisi in appezzamenti e dati in concessione. Se gli immigrati italiani in un primo momento sono lavoratori della terra a stipendio fisso, il loro status si modificherà in affittuari con facoltà di riscatto della proprietà della terra o in proprietari subito, dietro pagamento di metà del valore della terra. A metà degli anni 30 inizia la Golden Age della presenza italiana in Libia, perché come governatore viene spedito in Libia Italo Balbo. Squadrista della prima ora, Balbo aveva fatto presto carriera nelle file dei fasci. E nel 22 era uno dei quadrumveri a fianco di Mussolini nella marcia su Roma. Ma ora diventava scomodo in patria. Oscurava l'astro di Benito, che nutriva per Italo una profonda gelosia. E come non capirlo? Povero Mux. Eccolo, bello e valoroso. Dopo le trasvolate atlantiche che Balbo organizza con immensa risonanza anche di là dall'oceano, la sua popolarità è a 1000 e per regio decreto viene consacrato maresciallo dell'aria. Tripolitania e Cirenaica sono unificate e divengono Libia, un territorio che, quanto a materie prime, vale quanto il due ripicche, per quanto se ne sa. La colonia di Libia, perciò, non potendo assurgere a serbatoio di materie prime, viene eletta la destinazione della manodopera in surplus che in Italia arranca. Balbo riesce a convogliare in Libia il 30% del bilancio nazionale. Si potevano dedicare tali ingenti investimenti allo sviluppo del nostro meridione, invece che convogliarli dall'altra parte del Mediterraneo? È una domanda che gli storici si sono posti. Probabilmente sarebbe stato più sensato, ma del senno di poi sono piene le fosse. Con Balbo a Tripoli la città fiorisce. Sorgono scuole, e non solo italiane, ma anche coraniche, imprese artigiane, ospedali, ambulatori, infrastrutture. Tripoli, dove Balbo è il suo quartier generale, diventa un gioiello ed egli non trascura di richiamare in Libia artisti di calibro per far restaurare le vestigia dell'antichità. Come il teatro di Sabrata, dove poi giungeranno a recitarvi i più grandi attori, da Vittorio Gasma a Emma Grammatica. Balbo sa far parlare di sé anche nella madrepatria, con imprese non solo grandiose, ma anche estremamente efficienti, ben organizzate, indiscutibilmente frutto di una notevole capacità di pensare, decidere, agire. Quali sono queste imprese? 1. Nel 1935-36, in Tripolitania, un'eccezionale siccità rischia di mettere a repentaglio il bestiame. Per mettere in salvo gli animali, si caricano su dei piroscafi e si trasportano in Cirenaica, dove il clima è migliore. 2. La Litoranea, detta anche la Balbia. Un'opera mastodontica, una gigantografia! 1822 chilometri di strada che attraversa la Libia per tutta la sua larghezza e lungo la costa, dalla Tunisia all'Egitto. Tempo di costruzione. 1 anno. Problema principale. Poter disporre di acqua lungo tutta la tratta di allestimento dei cantieri. Numero di operai per ogni giorno di lavoro. 13.000. 1.000 italiani, 12.000 libici. E adesso 3. Le leggi razziali del 38. Balbo si rifiuta di applicarle, se non prendendo qualche molle provvedimento che si risolve con il prepensionamento di qualche impiegato. Gli ebrei sono cruciali nell'economia libica. Vale la pena di subbidire a Mussolini. Ma Balbo non è magnanimo soltanto nei confronti degli ebrei, ma è anche pragmaticamente liberale verso i nativi. Crede che per assicurare alla Libia un futuro florido debbano convivere identità differenti in posizioni simili. Per cui inizia a dare ai nativi spazi di partecipazione alla vita civile. Nuove leggi permettono la valorizzazione del lavoro indigeno, i salari aumentano, sono concessi prestiti agrari. Viene riconosciuto lo stato civile di cittadino a superamento di quello di appartenente a un clan e, soprattutto, si rinuncia definitivamente a qualsiasi tentativo di evangelizzazione, tant'è che Balbo fa istituire delle scuole coraniche. E 4. Il petrolio. Gli italiani sono stati additati come i mancati scopritori del petrolio libico. Errore. È un po' come dire che erano stati degli idioti? Esatto. Che erano seduti su un tesoro e se ne stavano col naso all'aria? Già. E non era così? No. Il professore ardito, e mai nome fu più azzeccato, Desio, geologo dell'Università di Milano, che in Libia dirige le ricerche di falde acquifere, nel 1936, vicino Tripoli, durante le operazioni di trivellazione, riscontra la presenza di petrolio. Desio estrae i primi litri di grezzo libico e fa rapporto a Balbo, che riunisce una squadra di tecnici ed esperti per definire un programma di ricerche. Programma che però sarà bruscamente interrotto dai venti di guerra. E infine 5. Il 28 ottobre 1938, nel 16° anniversario della marcia su Roma, da Genova, dove Balbo ad aprire il corteo, da Napoli e da Siracusa, salpano alla volta di Libia 20.000 coloni. Passeranno alla storia proprio così, con il nome di 20.000. Balbo è un genio, è un geniale uomo di marketing, diremmo oggi. Sa dare valore a tutti gli attori della sua scena, progetta e realizza instancabilmente e non trascura nessun dettaglio. Balbo, che vola indietro in Libia per attenderli nel porto di Tripoli, ha preparato un'accoglienza calorosa e inaspettata che lascia sconcertati questi uomini, donne, bambini che si sentono ricevere come degli eroi. Ed effettivamente un po' lo diventeranno. Alla partenza sono stati salutati da fanfare e fuochi d'artificio. All'arrivo sono radunati in piazza Castello per assistere all'inaugurazione dell'imponente statua equestre di Mussolini ed ascoltare il discorso di benvenuto di Balbo. Ogni famiglia riceve cestini di cibi freddi e buoni da scambiare con 2 litri di vino, 2 biglietti per il cinema, 5 ingressi per la sala da ballo e sigarette a go-go! Qualche padre di famiglia incredulo si tasta la tasca della giacca dove conserva la lettera di istruzione. Tu, che hai avuto la buona sorte di essere scelto, insieme alla tua famiglia, per andare a vivere in una nuova casa e lavorare in una nuova fattoria in Libia. Come avviene la selezione dei coloni? La famiglia ideale è numerosa, di indubbia moralità, contadina, i suoi componenti godono di ottima salute, di fede fascista o quantomeno di tessera, ed il capofamiglia, possibilmente, ha servito la patria durante la guerra del 15-18. La speranza che con la colonizzazione demografica intensiva si potesse dare una scossione al meridione si vede ben presto delusa. Dei 1775 nuclei familiari giunti in Libia nel 38, i gruppi più numerosi provengono da Rovigo, 228 famiglie, Padova, 223 famiglie, da Venezia, 211 famiglie, da Ferrara, 135, da Vicenza, 119, da Verona, 101, Treviso, 100, da Reggio Emilia, 61, da Bari e da Modena, 57, 51 da Mantova, 45 da Udine, 39 dall'Aquila, 23 da Chieti, 22 da Pescara. L'organizzazione delle nuove leve di coloni è ferrea ed efficientissima. Le famiglie giunte in Libia vengono destinate a villaggi che sono stati costruiti a tempo di record, nel giro di 2-3 anni. In Tripolitania e Cirenaica sorgono 24 villaggi che vengono battezzati come personaggi illustri dell'italica storia. Gioda, Bianchi, Brevilieri, Oliveti, Giordani, Crispi, Micca, Corradini, Tazzoli, Marconi, Garibaldi, Miani, Beda Littoria, Maddalena, Luigi Razza, Luigi di Savoia, Giovanni Berta, Baracca, Oberdan, D'Annunzio, Battisti, Filzi, Mameli, Sauro. I villaggi devono rappresentare tutte le province di provenienza e all'epoca che si parlavano i dialetti, sebbene la solidarietà fosse grande tra le famiglie, i villaggi erano delle piccole babele. Siamo partiti da un paesello della provincia di Benevento. Eravamo in 7 più il papà e la mamma nel 40. Quindi siamo andati giù in Libia, ci hanno accolto Italo Balbo, lì i camion, ci hanno messo su questi camion militari e noi siamo finiti con una famiglia che erano anche loro 6 o 7, miglioranza, quindi loro veneti e parlavano il veneto stretto. Noi beneventani parlavamo il campano. Anche noi tre si parlava assieme ma non si capiva niente. Molto affiatamento, molta cosa. C'è la mia mamma che aveva delle famiglie, che lei se lo ricorda ancora di più, friulane, queste famiglie qui. E magari andavano e dice, signora Angela, mi vuoi prestare il tamigio? Mia mamma diceva, ma che cos'è sto tamigio? Oh, dice, vattela a prendere te. E cos'era? Il tamigio era quello... Il setaccio era... Per garantire un adeguato livello di servizi, al centro del villaggio non manca il municipio, la scuola elementare, con annessi gli alloggi dei maestri, la casa del fascio, gli uffici dell'ente colonizzatore, che in Cirenaica è l'ente colonizzazione Libia e in Tripolitania l'INFPS, cioè Istituto Nazionale Fascista Previdenza Sociale, l'ambulatorio medico con la presenza di un infermiere, la sede della PAI, Polizia dell'Africa Italiana, composta da giganti ben selezionati che portano sempre il casco coloniale per apparire sempre più imponenti e riuscire a intimidire i sudditi delle colonie. Un mercato, uno spaccio, la locanda, la chiesa con la canonica. Per affrescare le chiese dei villaggi, Balbo richiama dall'Italia artisti come Cascella, Funi, Bartoli, Enzo Morelli, Mimì Quillici. Dal centro del villaggio si diramano le strade che conducono ai poderi. I poderi. Ad ogni famiglia viene assegnato un podere. Il podere consiste in un'area desertica di 10 ettari. Al centro vi è la casa colonica, una casa da sogno. Quando siamo arrivati a Garibaldi specialmente, una casa così bella, mai vista. E a trovare una casa di quella, con una stufa nuova, sopra il tavolo c'era una bottiglia d'aceto, un pacco di fiammiferi e una spiritiera. L'abbiamo trovato. E la notte non siamo neanche dormiti, poi quando era bella la casa il sonno non veniva. La tipica casa colonica è una palazzina ad un piano disposta a U. Dal porticato si accede al corpo centrale. In cucina campeggia il focolare con un grande camino. Le pentole sono appese ad un gancio e il lavandino butta acqua fredda. 8 reti metalliche sono già collocate nelle 3-4 camere da letto. Vi sono poi 2 maniche, manica di destra e manica di sinistra. Lungo una manica c'è la stalla con 2 mangiatoie, una più alta per l'animale da tiro, in genere mulo o cavallo, ed una più bassa per le mucche e le pecore. Il pavimento della stalla è in cemento per poter essere lavato. Il liquame, attraverso una canalizzazione coperta e interrata, defluisce in un lettamaio esterno. Nell'altra manica dell'edificio coloniale c'è il forno per il pane, un ripostiglio per gli attrezzi, un locale per il ricovero del carro agricolo e dell'autobotte per l'irrigazione, che vengono trainati prevalentemente da muli. Tra le 2 maniche c'è un cancello carraio. Il tetto è a terrazza per prevenire danni alle persone e agli edifici in caso di ghibli, il forte vento che spira dal deserto e che scarica enormi quantità di sabbia. Al centro della casa fa bella mostra di sé un prontuario con i consigli al nuovo colono, tra cui spicca il «difendi dal vento il tuo podere». Ma come? Mantenendo tante piante sempre verdi, tutti intorno alla casa e al podere. Anche lungo viali sterrati, che dalla strada asfaltata conducono alle case e che d'estate divengono solidi come l'asfalto per il gran caldo, i coloni piantano un doppio filare di alberi per ombreggiarli. All'esterno di ogni casa colonica è ben visibile lo stemma del fascio, il numero del podere e il riferimento all'ente di colonizzazione. Quando i coloni entrano per la prima volta nelle case vi trovano un attaccapanni, 2 lumi a petrolio, 100 kg di farina, 1 litro d'olio, spaghetti, fagioli, sale, zucchero e poi mangimi e sementi. Dunque i coloni, ma chiamiamoli emigranti, che se non avessero faticato a mettere insieme il pranzo con la cena, mica se ne sarebbero andati da casa loro. Ricevono una magnifica accoglienza. Effettivamente il governo li tratta meglio se se ne vanno, piuttosto che se restano in patria. Ma il lavoro è durissimo. E lì ci siamo adattati a vedere sto deserto da risvegliare, da fare i lavori che c'erano, piantagioni e cose varie, assistite da un capo azienda, dai fattori, quindi abbiamo praticamente iniziato i lavori di messa in opera tutte le cose, no? Io ho solo lavorato, ho partito, quando sono andata là, mancavo poco a 15 anni, ho sempre lavorato, io non ho mai avuto la rada in mano e mio padre è ammalato, questo era piccolo, mia mamma era partorita, gli altri fratelli erano in colonia. Un altro fratello era sotto le armi. Ho solo lavorato, io non mi ricordo niente, mi sono dovuta imparare pure a arare con la rada. No, io non mi ricordo niente. Poi mi sono sposato, peggio di andare di notte, sempre a lavorare. Io ho solo lavorato. E quante volte bisognava ricominciare da zero? Ecco, quindi, primi tempi è stata dura, perché ricordo tutto, perché io ho visto anche papà molte volte in ginocchio, perché lì le noccioline erano pronte, arrivavano un'ondata di un'invasione di cavallette, in un attimo di secondo non c'era niente. Questi emigranti avrebbero potuto indifferentemente sbarcare nelle Americhe o in Francia o in Germania a costruire ponti e ferrovie, strade e autostrade. Invece, per gli inspiegabili casi della vita, chi sbarcò in Libia, a coltivare deserto. E poi le steppe verdeggiarono, le rocce si coprirono di boschi e le dune diventarono colline incatenate al suolo dalle radici degli alberi. Era la quarta sponda. 10 giugno 1940. L'Italia entra in guerra. Guerra che le potenze europee si giocano anche sullo scacchiere coloniale. Mussolini, grazie ai suoi maneggi con Hitler e la Francia... Come Nigeria! Ti dichiaro guerra! Ma no, facciamo un armistizio. È riuscito a sopire il confine con la Tunisia francese? Mentre volge scalpitante al fronte anglo-egiziano. Don't worry, Benny! Gli dice Adolf... Dacci dentro! Sto per invadere l'Inghilterra! L'Inghilterra è nostra! Wurstel per tutti e alle 5 una pinta di birra, cazzo! Mux! Ma come fai a credere alle balle dell'imbianchino austriaco? Ma che volete? Mux è un italiano. E a noi italiani ci piace credere alle bugie, purché siano altisonanti, sufficientemente incredibili e commoventi. Quali sarebbero queste bugie? A partire dal suo vincere, vinceremo! E vi prometto 1 milione di posti di lavoro. E meno tasse per tutti. E l'ultima? Nessuna riforma nell'anno della sua introduzione da... risparmi, è un meccanismo lungo tra le generazioni e allora abbiamo dovuto, e ci è costato anche psicologicamente, chiedere un sacrificio. A noi più le sparano grosse più ci piacciono. Quando Mux, che già si sente imperatore d'Africa, ordina a Balbo di invadere l'Egitto, Italo nicchia, non gli sembra cosa, e poi dice... Calma, prima chiami Adolf e mi fai mandare 40 carri armati tedeschi e poi... meglio mi faccio un giro io. Il 28 giugno 1940 Balbo si alza in volo per andare a perlustrare la baia di Tobruk. Per un errore di fuoco amico, questa è la versione che è passata alla storia, il suo aereo viene abbattuto. Uno degli ultimi atti di Balbo è quello di mettere in salvo, lui credeva, i bimbi libici. Con la minaccia sempre più severa che la Libia sarebbe trasformata presto in fronte di guerra, Balbo pensa a tutelare i bambini mandandoli in vacanza nelle colonie estive italiane. Dovevano restarvi 3 mesi. Saranno invece lontani dalle loro famiglie per 5, 6, anche 7 anni. Quella dei ragazzi della quarta sponda è una delle pagine più tragiche e più ignorate della nostra storia. Alla vigilia dell'entrata in guerra dell'Italia, con le stesse navi che conducono in Libia i soldati italiani, 13.000 bambini dei 4 ai 14 anni vengono spediti in patria. La GIL, Gioventù Italiana del Littorio, cura che vengano sistemati nelle colonie estive dislocate soprattutto lungo la riviera Adriatica. A fine settembre, quando l'illusione della guerra breve è decisamente tramontata, occorre riorganizzare completamente le colonie, sia perché alcuni stabilimenti non sono attrezzati per il periodo invernale, ma soprattutto per permettere ai bambini di incominciare il nuovo anno scolastico. A fine settembre i piccoli vengono smistati in strutture situate a Bari, Napoli, Genova, sugli Appennini e sulle Alpi. Verranno spostati di nuovo all'inizio del 42 per l'evolversi sfavorevole delle vicende belliche in colonie del nord e del centro. La vita nelle colonie è organizzata in modo militaresco, rigido. Non vi è nessuno spazio per la tenerezza. Le coccole della mamma non torneranno più. Il regime vuole dei soldatini, non dei bambini, dei piccoli camerati ubbidienti e devoti. Perciò li cresce nel culto cieco del duce. Credere, ubbidire e combattere. Anche questi bimbi diventeranno pedine innocenti di quel risico delirante che è stata la Seconda Guerra Mondiale, che sono tutte le guerre. Quarta sponda, supplemento del bollettino del comando generale della GIL, raccoglie foto, disegni, poesie, lettere dei bimbi libici. Sono documenti commoventi in cui si rintracciano tra l'ingenuità e i sogni dei piccini i segni di un indottrinamento massiccio e tagliato a misura di bambino. Le giornate sono scandite da rituali precisi, come l'alza e la maina bandiera, le immancabili esercitazioni ginniche, il ringraziamento incondizionato al duce, che talvolta faceva visita alle colonie. Facevamo la nostra ginnastica, cantevamo, saltevamo, alza bandiera, tutte naturalmente canzoni dell'epoca, del periodo fascista, quindi noi cantevamo Vincere, quella di Benito Mussolini, eccetera. ma come me anche gli altri bambini, vedo che quando parlo con loro si ha il desiderio, la nostalgia di andare a vedere queste colonie dove abbiamo vissuto per tanti anni, dove abbiamo fatto la cresima, è venuto Facchinetti, il nostro vescovo di Tripoli. E poi quando arrivava Mussolini, qualche volta era una cosa euforica per noi. Noi ci trovavamo, insomma, ci avevano dato da bere tutta quella storia e noi vivevamo quella storia. Nonostante che eravamo bambini, però eravamo fascisti. Noi siamo vissuti con pane e fascismo. I bambini vengono meticolosamente programmati a diventare gli orgogliosi soldati di domani. Ecco come il balilla Ragusa Ernesto ci racconta la sua giornata. Siamo bimbi tripolini, siamo balilla di Mussolini. Un dì sui campi di battaglia saprei sfidare la mitraglia. Siamo in fila, eccoci qua. Viva il duce, un alalà, fiero sguardo che scintilla. Siamo piccoli balilla. A giocare tutti quanti, miei birbanti. Ogni bimbo fa la sfida, chi più corre, chi più grida. Ecco la posta, sodo una voce, da ogni parte ancorre veloce, è la posta dei parenti, tutti quanti siamo contenti. Tutti tornano contenti ai loro giochi, alla baldoria, e poi restano fidenti col pensiero alla vittoria. Noi passiamo le giornate coltivando un po' di terra, con fagioli e con patate, noi abbiamo l'orto di guerra. Oltre il babbo, oltre la mamma, c'è un amore che ci infiamma. Patria nostra, siamo piccini, viva, viva Mussolini! E sentiamo come ci descrive le sue giornate la piccola italiana Banfi Marcella. Com'è bello levarsi la mattina dopo aver sognato la cara mammina. Pronti tutti in lunga schiera, facciamo il saluto alla nostra bandiera. Si fa ginnastica, si fan flessioni e poi si cantano inni e canzoni. In refettorio ognuno è felice. Ecco che viene la direttrice. Ci manda ai giochi in mezzo al giardino, nella gran giostra o sul cavallino. Si scorda tutto, pure la guerra. Si corre, si gira, non si sta in terra. È l'ora di scuola, suona la campana. Anche la mente deve essere sana. Facciamo conto di non sentire, ma sulla porta si vede apparire la guida nostra, la direttrice. Col solo sguardo essa ci dice: non siete forse dei soldatini? Presto, inquadratevi, svelti piccini. Studiar non è fatica vana. Non sono forse piccola italiana? Degna del duce vuoi essere anch'io, come mio padre e il fratellin mio. Duce, per te io son felice. Il Dio ti guarda, ti benedice. L'infanzia nostra ricorderemo come un bel sogno, un incanto supremo. La propaganda della GIL dipinge con toni idilliaci la vita nelle colonie, luoghi dove i bambini vengono guidati con giusta disciplina e rigore e dove entusiasmo, armonia, serenità sono i sentimenti prevalenti. La realtà tra le pareti delle colonie non era invece così rosea come il sistema di comunicazione fascista diffondeva. Non tutti i bambini, per carattere, per età, per grado di autonomia raggiunto, potevano adattarsi facilmente alla regola militare pretesa in colonia. In colonia vengono impartite punizioni esemplari che sfiorano il sadismo, anche per piccole omissioni, per esempio non essere riusciti ad arrivare in tempo a fare la pipì in bagno. Molti bambini, privi di un rifugio affettivo, vivono nel terrore. Da sempre i bambini giocano alla guerra per misurare le proprie forze e per imparare a controllarle. Ma in colonia i bambini vengono addirittura fatti appassionare la guerra. La guerra, quella che si sta combattendo con bombe e carri armati. Si fa credere ai bimbi che la guerra sia un po' come un campionato di calcio e la vittoria, lo scudetto, sia una certezza. La guerra viene raccontata ai bambini come un'avventura bella, troppo bella. Non viene mai descritta per quello che è: orrore, distruzione e morte. No, la guerra sembra davvero un gioco da ragazzi. Scrive una vigilatrice. Il lungo fiume è il campo di battaglia, dove si fanno infantilmente rivivere i più grandi episodi di questa guerra. È il luogo di epiche battaglie, in cui naturalmente gli inglesi e i russi, impersonati da sassi e cespugli, perché nessuno si sognerebbe mai, neppur per scherzo, di essere inglese. Hanno la peggio. Scrive il bimbo Leonida. I nostri valorosi soldati combattono a fianco dei soldati tedeschi per vincere i popoli ricchi e crudeli. Vinceremo e con tutti i nostri sacrifici avremo alla fine la libertà del mondo. I bimbi, per distrarsi un pochino, corrono e giocano a palla. Si va a pranzo, cioè non ancora. Si legge prima il bollettino e si acclamano con gioia grande le vittorie dell'asse. E si compongono canzoni su arie celebri, come questa della piccola italiana Angelina Pescador. Tutte le sere nel candido lettin prego il Signore per tutti i soldati che per la patria lottano con grande ardor del loro cuor, con voi si vincerà, con voi si vincerà, con voi si vincerà. Quando le mamme attendono il figliol, nel loro volto c'è un fulgido splendor. È la vittoria che giungerà a incoronar la civiltà. Con voi si vincerà, con voi si vincerà, con voi si vincerà. Dammi una rosa da tener sul cuor, legala col filo dei tuoi capelli d'or. Forse domani piangerai, ma dopo tu sorriderai. A chi li male, a chi li male. L'orgoglio per il coraggio e l'eroismo dimostrati in battaglia da un congiunto deve valere più del dolore, deve cancellare il dolore per un papà, per un fratello che muore combattendo. Come ci racconta Primina Marchesi. Purtroppo le notizie brutte arrivavano con più frequenza di quelle belle e ogni volta si ripeteva la stessa scena, tutte sull'attenti, in attesa di vedere arrivare la direttrice con la posta. La si vedeva apparire da lontano, sempre in divisa. Dalla sua bocca usciva il nome di una di noi, che sempre sull'attenti faceva un passo avanti. La direttrice le si avvicinava, le metteva una mano sulla spalla e le comunicava che il padre, un fratello o un parente era rimasto vittima su uno dei tanti fronti. E la ragazza doveva dimostrare di essere forte e sentirsi orgogliosa di quella persona che aveva perso la vita servendo la patria. Una ragazza, Elda Frattin, scrive al fratello Pio al fronte. Pensa alla mamma che notte e giorno prega per te. Pensa a papà che è pronto ad offrire l'olocausto più grande che un cittadino possa offrire alla patria, il sangue del suo figliolo. L'Italia sarà forte e potente. All'ardore dei nostri eroi non potrà mancare la vittoria finale. E allora tutti ritornerete. Ritornerai anche tu, Pio. In qualunque modo, anche se la patria ti avesse chiesto il sacrificio più supremo, gli eroi non muoiono mai. Era un popolo intero ad essere imbevuto di un senso ottuso di realtà. L'ideale diventava fanatismo. Senti, senti cosa scrive Bimbi delle Colonie e il cappellano alpino Egisto Folegnani. Il primo giorno ricevo il battesimo di sangue. Una pallottola mi passa da parte a parte una coscia. Qualcuno è caduto prima di raggiungere la quota. Dal cielo avranno gustato la gioia della vittoria. Per noi non sono morti, sono vivi ancora e li sentiamo vicini a noi con il loro eroismo che ci stimola ad imitarli. Buoni, bravi questi ragazzoni. Siamo all'altezza quasi di 2000 metri. Ci tiene desti il tappum dei moschetti, il rosario della mitraglia. Il linguaggio mescola sacro e profano e se ne fa di confusione. Fa, o Signore, che il seme che tanto largamente per la bontà del Duce viene gettato nei nostri cuori, germogli in fiori di virtù cristiane per un'Italia sempre più grande, e così sia. Vincere, santa parola, l'hai detta tu, o Duce, tu parli una volta sola. Vincere e vinceremo, nostra è la vittoria. L'Italia imperiale cinta sarà di gloria. Il sangue dei nostri eroi purifica il peccato, bolscevico nemico, che nazioni ha rovinato. L'Italia fascista ostacoli non vede, va avanti a testa alta, difende la sua fede. I bambini divengono soggetti attivi, collaborano con gesti forse piccoli ma importanti ad aiutare i soldati al fronte. E tra i bambini e i combattenti vi sono frequenti scambi di corrispondenza. Scrive Antonio Reina al soldato Zanaboni Francesco sul fronte russo. Vedo che avete tanto gradito la mia pancera lavorata con amore ed immagino molto bene le sofferenze di voi intrepidi soldati. Vi trovate in Russia, dove il freddo delle nostre Alpi è maggiormente intenso. Sopportate ogni cosa da valoroso soldato. Anche noi siamo lontani dall'amore paterno e materno dei quali avremmo tanto bisogno. E la piccola Galania Annunziata. Lavoro volentieri per i nostri cari combattenti, perché loro combattono per la grandezza della nostra patria. Io quel lavoro lo faccio bene, è un bel punto. Ho già fatto il dietro e presto finisco. Poi, se la direttrice vuole, faccio una sciarpa. E se anche vuole, faccio un paio di calze. E se ancora vuole, faccio un paio di guanti. Chissà chi lo riceverà il mio lavoro che cosa dirà. Io il lavoro l'ho fatto con cuore, perché voglio che i soldati non soffrano il freddo. Con la caduta del fascismo, le colonie passeranno dalla GIL al controllo del Ministero dell'Africa Italiana, quindi all'Opera Balilla, fino a divenire terra di nessuno. Nell'estate del 44 vengono ancora spostate prevalentemente al nord. Perché la guerra doveva durare 3 mesi, e invece poi dopo 3 anni è caduto il fascismo. E allora i bambini avevano altre cose da pensare, più importante dei bambini. Quindi non ci mandavano più nel mangiare, nel vestire, nel dormire, insomma non avevamo più niente. Anzi, bisogna dire che, non so, nel periodo fascista gli italiani erano un po' tutti fascisti. Caduto il fascismo, di fascisti non ce n'erano più. Però noi avevamo ancora le divise, io ero un balilla, mio fratello un avanguardista, una piccola italiana era mia sorella, avevamo quelle divise, quindi quando uscivamo ancora con quelle divise. E certo che gli italiani non ci guardavano molto, quelli del posto, io ero a Castel Bolognese, che quella era una zona che era diventata tutto un po' dalla parte sinistra. E allora qualche volta ci insultavano, ci deridevano, insomma. Il sistema si è ormai sfaldato. Per i ragazzi si aprono 3 vie. Il ricongiungimento con parenti residenti in Italia, l'affidamento a famiglie contadine in cambio di una mano nei lavori di campi e, infine, la scelta di arruolarsi nell'esercito della Repubblica Sociale Italiana. Dice ancora Primina Marchesi. I ragazzi delle colonie erano diventati grandi e partivano volontari per la guerra. Cresciuti nel clima fascista di quegli anni, si arruolarono tutti nella decima MAS. Le ragazze, invece, si arruolarono nelle ausiliarie. La fine della guerra li trovò tutti dalla parte sbagliata. Ma c'è chi ha avuto una storia ancora diversa. E io sono scappato poi dalla colonia insieme a un amico. Basta, della famiglia non ho saputo più niente e loro non sapevano niente di noi. E sono finito da un contadino che si chiamava Ortelli, un grande corridore per quel periodo, che correva insieme a Magni, a Coppi, a Bartali, questo qui. Però non lui, lui ci ha preso e poi ci ha dato in consegna ai loro zii, no? L'odissea dei bambini libici continuerà anche a guerra finita. La guerra vista dalla Libia è una guerra durissima, combattuta con mezzi sottodimensionati rispetto alle esigenze. Nemmeno Rommel, la volpe del deserto, riesce a cambiare il corso di una sconfitta annunciata. La Germania, stremata sulla difensiva, non invia più rifornimenti. Il 1942 è marchiato dalla disperata resistenza delle divisioni italiane con truppe decimate. Le due battaglie di El Alamein costringono tedeschi e italiani alla ritirata. Nel gennaio del 43 i coloni, allertati sull'imminente arrivo delle truppe nemiche, abbandonano case, poderi, fabbriche, beni. Si mette in marcia una lunga colonna di automezzi militari e civili. Perché la guerra veniva indietro. Siamo scappati per mezzo di militari, da solo siamo rimasti due mucche, due vitello, siamo rimaste le galline. Ci siamo portati per mezzo dei militari nostri soltanto la biancheria, non siamo portati proprio niente, questa roba lì. E poi siamo arrivati al bivio del potere, dei confini, del confine, dei confini, ecco, tra Tripoli, per quanti bombardamenti c'erano quel giorno. Io mi ricordo. Era lei, mia sorella, aveva 3 anni e io ne avevo 18. Siamo scappati con il militare nostro sotto al rifugio. E quel militare ci ha dato perfino una scatoletta e ce l'ha aperta con la baionetta. Mi ricordo così bene. E ci ha dato mezza galletta ciascuna, a me e mia sorella. Dopo, quando hanno finito il bombardamento, per ritornare con i cami dei militari, quelli che gli portavano, quel giovanotto che gli portava col camion, si chiamava pure Antonio, era di Roma. Era di Roma. E mia sorella, per far presto perché c'erano i bombardamenti, per arrampicarsi, si è fatta male a una mano. Al camion. Al camion. Si è fatta male a una mano. Proprio si è agganciata qua. E mia mamma non aveva niente per tamponare il sangue. Si è strappata la gonna che aveva sotto, l'ha strappata per tamponare. E siamo scappati, siamo andati alla casa di mia suocera. Però allora non era mia suocera, era una paesana. Poi dopo è diventata mia suocera. E siamo scappati. Sotto l'incassare delle truppe britanniche, gli italiani residenti in Cirenaica iniziano la fuga di 1600 chilometri verso la Tripolitania. La storia della colonia italiana è alla fine. La Libia passa sotto il controllo inglese. L'amministrazione britannica stabilisce che per ogni italiano ammesso in Libia un altro debba essere rimpatriato e non riconosce la questione di 10.000 ragazzi e superstiti delle colonie che da anni non tornano a casa. Nel primo dopoguerra rientreranno regolarmente in Libia soltanto 1.500 ragazzi. Approderanno clandestinamente molti altri a bordo di barconi e motopescherecci. Altri ragazzi resteranno sospesi, in attesa, nei vari campi profughi italiani, anche per 3 anni. Poi sono andati via i tedeschi, sono arrivati gli inglesi, e allora poi c'è stato un po' di rimetterci un po' assieme a noi altri, no? Tutti questi bimbi delle colonie, cercare di raccoglierli e portarci da qualche parte. Infatti ci hanno portato a Cinecittà, che era metà dei stranieri e metà degli italiani, che c'erano i reduci e poi c'erano tutti questi bambini delle colonie. E in pratica poi da lì hanno preso tutti i bambini da Cinecittà e li hanno portati ad Assisi. Assisi è un ambiente abbastanza buono, insomma, e da lì poi è stato il salto che siamo ritornati in Libia. Però sono passati due anni di questa vita così sbandata, di ragazzi buttati in qualche maniera, senza vestiti, e andare a chiedere l'elemosina, a rubare, a fare tutti questi disastri. Lei mette assieme una banda di 200-300 bambini di 10, 12, 13, 14 anni, io avevo 13 anni allora, e puoi immaginare, senza guida, senza una direzione, non si andava più a scuola perché non c'erano le scuole dopo la guerra. E quindi tutti i vizi che potevano prendere quei bambini lì li abbiamo presi e ce li siamo portati a casa. Quindi praticamente quando sono tornato lì, per me, mia madre era una sconosciuta, io la chiamavo signora. Praticamente chiamando la signora lei dice, ma com'è? Dice, ti ho fatto grande, non merito neanche di essere chiamata mamma. Ma dico, a me mi ha cresciuto Mussolini. Puoi immaginare che botta che gli ho dato. Vabbè, insomma, poi l'ho fatta tribolare tanto, tanto, tanto. Ho fatto tribolare i fratelli, finché mia madre ha cercato una via di scampo per vedere di mettermi un po' in ordine. Mi ha comprato una fisarmonica. Io avevo il fratello, cioè ancora il fratello, non suona più il violino, però lo suonava molto bene il violino, la musica, aveva imparato bene. E mi ha insegnato la musica e ho imparato a suonare bene la fisarmonica. C'era un signore, Pometto, che suonava la fisarmonica molto bene, mi ha insegnato. Quindi andando in giro nelle famiglie a suonare mi sono fatto dei grandi amici e insomma mi sono adattato poi a questa vita di deserto, che tant'è vero poi mi è dispiaciuto tanto quando sono venuto via da lì. Con il trattato di pace del 47, l'Italia rinuncia a tutti i suoi diritti e titoli sulla Libia. Il 14 maggio 1948 viene proclamata la nascita dello Stato di Israele. Cosa c'entra? C'entra, vai avanti con le date. Nel novembre del 49, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite raccomanda che la Libia, compresi la Cirenaica, la Tripolitania e il Fezzan, verrà costituita in Stato indipendente e sovrano, e che questa indipendenza diventerà effettiva al più presto, in ogni caso non oltre il primo gennaio 1952. Il 2 dicembre 1950 viene Mohamed Idriss al-Mahdi al-Senussi, viene designato futuro re di Libia. Il 24 dicembre 1951 re Idriss proclama l'indipendenza della Libia. Il 14 novembre 1954 Nasser diventa presidente dell'Egitto. Cosa c'entra? C'entra, vai avanti con le date. Nel 1956 tra Italia e Libia viene firmato un accordo. L'Italia si impegna a risarcire i danni di guerra e trasferire i beni demaniali al nuovo Stato libico. Viene in cambio riconosciuta la proprietà dei privati. E alle CL e INPS è concesso di portare a termine le opere di valorizzazione intraprese. Ma quell'accordo diventerà carta straccia. Inglesi e americani insediano basi militari in punti strategici del territorio libico. Ma nel nuovo contesto come viene considerata la comunità italiana? Una volta subentrata prima l'amministrazione britannica, poi la monarchia, gli italiani presenti sul suolo libico tendono ad essere assimilati alle altre comunità straniere. Anzi, per il fatto di essere presenti da più tempo, hanno un ruolo chiave nell'economia e nella vita del paese. Anche se? Gli italiani erano stati quelli che durante la conquista coloniale avevano distrutto, violato, ucciso. È uno slogan che ritornerà. No. Era stato il fascismo, non gli italiani. Perché in Italia dove ci aveva portato il fascismo? La guerra è guerra. Waliada caribu, fibila di cum. E allora fate la guerra a casa vostra. Chi ha vissuto in Libia ricorda quegli anni con nostalgia. La Libia appartiene alla geografia dei sentimenti. C'era uno per tutti e tutti per uno, che qua non c'è, è ancora oggi. Lì ho riscontrato i veri amici miei. Io andavo lì, non so se avevo bisogno, avevo sempre un buchetto sullo stomaco, mi prendevo un pezzo di pane, come se fosse casa mia. Insomma, avevamo un modo di come tutta una famiglia, ed era così veramente, perché d'altra parte la nostra famiglia era quella lì. In Libia, e in particolar modo a Tripoli, la convivenza tra le differenti comunità è straordinariamente pacifica. Quegli anni sono ricordati come un periodo meraviglioso, dove non esistono steccati o divisioni. L'impasto di provenienze, religioni, lingue rappresenta una ricchezza incommensurabile. La Libia di quegli anni è un esempio di civiltà e progresso sociale. Noi eravamo in collegio durante il periodo scolastico, ecco, la vacanza estiva andavamo a casa, non so, un mesetto così, allora ecco, lì eravamo a contatto con il vicinato che erano arabi, ma noi ci giocavamo, noi eravamo in buonissimi rapporti, non, eravamo uno di loro. Bisogna dire che anche l'arabo era buono. Era buono. Era buono. Sì, sì. E li abbiamo rincontrati adesso. Adesso, specialmente l'anno scorso, bravi. Io solo per aver detto questa è la mia classe, uno dietro mi dice Rosanna. Quando mi giro lui mi ha detto la voce è ancora quella. Ma cose bellissime erano. Però devi dire la verità, non c'è stato un arabo che ti ha detto una cosa No. O ti ha fatto del male, peccato a Dio. Un arabo non mi ha detto una parola fuori posto. La cosa che forse noi non abbiamo mai avuto in Libia è stata la politica. Non esisteva, assolutamente. Non esistevano partiti, non c'era politica. Quindi eravamo, secondo me, in un paese dove la vita era di una tranquillità impressionante. In Libia vivono insieme musulmani, cattolici, protestanti, ortodossi ed ebrei, rispettandosi l'un l'altro. E pagando le tasse. Non è strano vedere che la processione del Corpus Domini siano dei vigili urbani arabi a farla passare. Dice Hassan, la nostra gioventù era una specie di happy days. Le feste, la casa dell'hamburger, la spiaggia, il surf. Vivevamo lo stile americano, italiano e arabo e parlavamo le tre lingue contemporaneamente. Gli ebrei ci invitavano per Kippur, gli italiani a Natale e Pasqua. Erano scambi di piatti e di cultura, di cortesia e di amore. La mattina andavamo a scuola dei preti, il pomeriggio a una scuola islamica e la sera a un corso d'inglese. Il giorno dopo camminavo per strada e avevo una gran confusione. Era una crisi di identità. E invece la mia identità era quella, era quel miscuglio. Ci si ritrovava, la vita era normale, si andava al cinema, si andava a ballare, facevamo teatro, perché poi con le scuole si organizzava nell'anfiteatro di Sabrata, che è un anfiteatro bellissimo, un anfiteatro romano. Ad ogni fine anno scolastico si organizzavano fra tutte le scuole della Tripolitania le recite di fine anno praticamente, e ci esibivamo su questo palcoscenico bellissimo, e dove praticamente il mio villaggio per 5 anni a fila ha vinto sempre il primo premio. A Tripoli c'erano, credo, tutto il mondo, cinesi, indiani, francesi, gli americani, gli ebrei, tantissimi ebrei, da tutto il mondo praticamente. Era una città multietnica, si viveva splendidamente bene, bellissima. Fiorente è una città come una delle nostre città delle riviere, sul mare, ma poi fiorente come città. A metà degli anni 50 sale la febbre dell'oro. Nero. Nel 1960 sono 20 le compagnie petrolifere che hanno ottenuto concessioni di ricerca sul territorio libico. Tre sono italiane: Ausonia Mineraria, Cori, Agip. Ma le concessioni sono a scadenza, hanno una durata limitata. E allora si succhia. Mentre l'import-export tra Italia e Libia continua a crescere. Nel 67-68 la Libia importa dall'Italia circa il 30% di tutto ciò che le serve, mentre l'Italia è il primo paese importatore di petrolio libico. Nell'estate del 67 gli Young Rascals con Groovin avevano raggiunto il quinto posto nelle classifiche internazionali, mentre nella hit parade dei paesi che esportano petrolio al quinto posto c'è la Libia. Dall'Egitto Nasser propaga nell'Africa settentrionale un panarabismo che faccia muro contro Israele e le potenze occidentali. Sulla scia di quei proclami, gli studenti libici scendono in piazza contro il governo di Re Idris, ritenuto troppo filo-occidentale. Nel giugno del 67, la guerra dei sei giorni, che decreta la superiorità militare e strategica di Israele rispetto ai suoi vicini, Egitto, Giordania, Siria, fa precipitare la situazione. Ed è pogrom. In Libia gli ebrei sono aggrediti nelle loro persone e nei loro beni. Il bilancio sarà di 15 morti e un centinaio di feriti. Alla fine del mese la maggioranza della popolazione ebrea è già altrove. L'attacco alla comunità ebraica è la prova più dolorosa che la Libia, crogiolo di popoli e culture, stava cambiando. Ma i segnali di un'epoca che si stava chiudendo si rintracciano in tanti aspetti della quotidianità. C'era la pulizia e avevi quasi sempre torto. Andavi in tribunale e avevi quasi sempre torto. Non ci sentivamo più sicuri, perché mentre prima, negli anni precedenti, non succedeva niente e tutto andava bene, noi ragazze, in quel periodo, abbiamo cominciato ad essere molestate dai ragazzi libici. In molti decidono di tornare. La popolazione italiana dagli anni 50 al 1969 scende da 45.000 a 20.000 unità. E quindi, non avendo più la tranquillità di vivere in questa terra, mio padre ha pensato bene che forse noi ragazzi era meglio venissimo in Italia. Non avrei mai pensato di vivere in Italia, perché la mia vita era quella in Libia, dove c'erano i miei amici, dove era la terra dove sono nata, dove c'era tutta la mia famiglia. Come una sinfonia ben orchestrata, la notte del 1 settembre 1969, mentre Re Idris si trova in Turchia, casualmente, per cure termali, scatta l'operazione Gerusalemme, messa in atto dagli ufficiali unionisti liberi, capitanati dal 27enne Muammar Gheddafi. Il colpo di Stato porta il marchio del panarabismo e dell'antiimperialismo propugnati da Nasser. Senza incontrare resistenza, quindi senza spargere sangue, sono occupati caserme, sedi di polizie, radio, aeroporti, edifici pubblici. Inglesi e americani, che in Libia hanno basi militari, non muovono un dito. Alle 7 di mattina è già tutto finito. È stato facilissimo. Alle 9 alla popolazione viene comunicato via radio il rovesciamento della monarchia e la nascita di una nuova repubblica, la Repubblica Araba Libica. Gheddafi è diventato il colonnello Gheddafi. fatto che il colpo di Stato si sia svolto in una irreale tranquillità induce parte della popolazione, specie chi risiede lontano dalle grandi città, a ritenere che il cambio di regime consista in un passaggio di potere con ricadute poco significative nella vita di tutti i giorni. Un'illusione che doveva durare poco. In novembre il Consiglio della Rivoluzione emana un decreto che provvede alla nazionalizzazione delle banche. Si inizia ad incrinare un sistema finanziario ed economico che era avanzato. Nuove leggi mettono restrizioni pesanti ai non libici, con l'obiettivo di estrometterli progressivamente da posizioni di rilievo della vita economica, mentre soltanto società interamente libiche possono dedicarsi all'import-export e al commercio all'ingrosso o al dettaglio. Il 21 luglio 1970, utilizzando la radio, il mezzo che gli risulta più consono e comodo per comunicare capillarmente con tutta la popolazione, Gheddafi, in completa violazione del trattato del 1956, annuncia la confisca di tutti i beni appartenenti agli italiani. E sempre via radio è recitato il lungo elenco degli espropriati. Dall'apparecchio radiofonico usciva un suono monotono e cupo. Qualcuno stava leggendo un elenco interminabile di nomi che ci faceva chiudere gli occhi dal sonno. Dopo un po' abbiamo sentito quelli del nonno e dello zio e abbiamo capito che parlava di noi. Mio padre si è alzato, ha spento la radio e ci ha mandati a letto. Non ricordo se quella sera abbiamo mangiato. Elena R. La lettura dell'elenco degli espropriati è durata ore. Rammento che è stata una lunga agonia in cui ho sperato di non sentire il nostro nome e cognome e neanche il numero del nostro podere. Alle 10:30 ho capito che il nostro futuro in Libia non esisteva più. E mi sono sentito morire. Luigino R. L'espulsione è la conseguenza ovvia di quella decisione. Da quel momento risulta anche difficile riuscire a vendere qualsiasi bene mobile o immobile. D'altronde perché qualcuno avrebbe dovuto comprarli? Tanto mica se li sarebbero portati via. Alle famiglie viene richiesto di stilare un inventario preciso dei beni posseduti e di ottemperare ad una lunga serie di adempimenti burocratici che hanno come primo scopo quello di esasperare degli individui che non riescono a capacitarsi di un provvedimento tanto ingiusto in nome di una tardiva e incomprensibile rivincita sul passato coloniale. Veramente la decisione di Gheddafi di cacciare gli italiani pare motivata in primo luogo dal bisogno di ostentare alla Libia e al mondo un potere pressoché assoluto. In fondo sembra quasi un atto di autolesionismo. Verranno infatti richiamati presto altri stranieri per soppiantare il vuoto di competenze, soprattutto tecniche, lasciato. Ma arriveranno degli estranei. Chi credeva che la Libia fosse il suo paese è stato mandato via. Se la confisca è una decisione volta a prostrare la comunità italiana, le modalità per poter rimpatriare sono ispirate ad una logica kafkiana ed hanno lo scopo di impaurire e di umiliare. Al momento di lasciare la Libia è possibile portare con sé un piccolo bagaglio e una cifra minima. Prima di andarcene, dovevamo dimostrare di avere pagato l'affitto e tutte le bollette di acqua, luce e gas. Nessuna pendenza doveva rimanere aperta. Poi dovevamo redigere un elenco dei nostri beni, farlo tradurre in arabo da un'agenzia e consegnarlo alle autorità che confiscavano il tutto e ci rilasciavano il certificato di nulla tenenza, senza il quale non si poteva partire. Silvia T. Ho impiegato 40 giorni per preparare i documenti. Ogni mattina andavo in città e tornavo alla sera, quando era abbastanza buio da non vedere nei campi la mia frutta marcire sugli alberi. Alla dogana siamo rimasti fermi 4 ore sotto il sole, con i bambini che avevano sete e volevano acqua, acqua e ancora acqua. Ero molto preoccupata, specie per il maschietto che aveva solo 1 anno e mezzo. Poi, finalmente, siamo partiti. L'ultima cosa che ricordo è il mare. Dina P. Potevamo portare con noi alcune masserizie, poche cose e possibilmente vecchie, perché quelle nuove venivano sequestrate alla dogana. Ci hanno portato via tutto, anche la dignità di andarcene con la testa alta. Io ho trovato umiliante dover pagarmi il biglietto dell'aereo per essere espulsa. Entro il 18 ottobre 1970 sono costretta ad andarsene 12.770 persone. Lasceranno in Libia un patrimonio stimato circa allora 200 miliardi di lire, costituito da terre coltivate, fattorie complete di pozzi, oleifici, stalle, abitazioni, negozi, cinema, ristoranti, supermercati, studi professionali e viti, ulivi, mandorli, agrumeti. Il governo italiano non si è levato, non è intervenuto per cercare una soluzione. No, no. È rimasta a guardare. O meglio, cedendo sulla questione della confisca e dell'espulsione, ha ottenuto su altri versanti. Ha ottenuto che grosse imprese, Eni e Fiat innanzitutto, potessero investire e commerciare indisturbate con la Libia. Ha ottenuto che l'Italia diventasse uno snodo fondamentale in Europa nel processo di acquisizione, raffinazione e distribuzione del petrolio. È la politica, baby. Se l'Italia avesse avanzato richieste per le proprietà confiscate, la Libia avrebbe riassumato i danni della guerra coloniale. Perché il famoso accordo del 56... Al rientro in Italia, i ripatriati vengono smistati in campi profughi disseminati per la penisola e immediatamente si imbattono in atteggiamenti di profonda ostilità. Negretti dal loro governo e dalla società, senza un lavoro né una casa, vengono bollati come sfruttatori, predatori di ricchezze e terre in Libia. Ed ora, giunti in Italia, usurpatori di lavoro. L'impatto è stato terribile, nel senso che noi siamo rientrati in Italia e ci siamo trovati soli, perché nessuno ci ha dato una mano, né il governo italiano, né le istituzioni. Quindi noi siamo arrivati in Italia e pensando di fermarci in una città dove ci fosse lavoro, perché essendo stati diseredati di tutto, avevamo bisogno di lavorare, di guadagnare qualcosa. C'era diffidenza da parte delle persone italiane, perché non conoscendoci, sapendo che avevamo vissuto in Africa, in Libia, non prestavamo nessuna affidabilità per poterci affittare una casa. Abbiamo vissuto per 6 mesi in uno scantinato. Abbiamo lasciato tutto, la casa arredata, tutto quello che avevamo è rimasto là, anche i soldi in banca. Siamo venuti via solo con la valigia e basta. Poi tornando in Italia invece, trovandomi in un contesto molto diverso da quello in cui ero abituata a vivere, per me è stato molto difficile. È stata difficile l'integrazione, è stato difficile sentirmi a casa mia, ecco, molto difficile. Mi ci sono voluti anni per ambientarmi e per abituarmi. Dico la verità, signora, io dico, non vorrei tornare indietro, ma eravamo nelle povertà in brutto qui in Italia. Non avevamo niente, mia mamma, per fortuna avevamo una casa che ce l'aveva data una mia zia. E freddo, neve che c'era, non c'era un cappotto, non c'era niente. E siamo andati avanti per tanti anni così ancora. Ma le dico francamente, se stavamo in Libia stavamo abbastanza bene, perché il mangiare ce l'avevamo. Quando siamo stati noi, la gallina c'era, il pane lo faceva, mia mamma faceva tutto praticamente. I conigli c'erano. No, questo c'era da mangiare. Ecco, ma quando siamo tornati, signora, non voglio ricordare, mi ricordo che mia mamma aveva fatto il cappotto, non c'erano i soldi. Avevo 19 anni, avevo tagliato una coperta militare e abbiamo fatto una mantellina col punto gambero, poi è andata così. Quando siamo arrivati in paese dicevano quelli che sono partiti, va come sono arrivati. Però ma stavamo bene perché non ci mancava niente. Ho fatto più fatica qua perché mamma mia, ho imparato a lavorare rubando il mestiere perché non insegnavo niente. Poi squattrinati che eravamo, la Caritas non c'era niente, quindi mio padre dopo, quando è scappato di notte, non aveva 100 lire per farci una telefonata. Mio padre è stato quanto tempo dopo da solo? Mio padre 2 anni, ma se l'è vista brutta, ha lasciato tutto lì nell'aeroporto, anche la macchina con le chiavi attaccate, perché noi abbiamo provato. Quindi anche quando vedo questi qua che arrivano con queste carrette così, mamma mia, una roba che ti fa... Quindi se scappano, perché sono veramente disperati, perché è dura. Le tracce del passato italiano vengono cancellate con foga. Perfino la cattedrale di Tripoli è trasformata in moschea e dedicata a Nasser. Sono rimasti soltanto i tombini. Il nuovo regime, dopo essersi accanito contro le comunità straniere, stravolge lo stile di vita fiorente e tranquillo della Libia pre-Gheddafi. Le nazionalizzazioni, il servizio militare protratto per 5 anni, l'esproprio dei beni, le restrizioni alle libertà personali, inducono anche molti libici a lasciare il paese. Per 40 lunghissimi anni agli italiani nati in Libia viene vietato il visto per poter tornare nel paese dove sono nati e vissuti, nemmeno per una vacanza. Nemmeno per far visita ai morti. Per 40 lunghissimi anni si rivive ogni giorno il rimpianto per quei luoghi dove si sono lasciate le proprie radici. Ho sempre avuto, per tutti questi anni che sono stata in Italia, questo desiderio di poter tornare nel posto dove sono nata e mi era vietato. Quando finalmente sono riuscita ad avere un visto per poter tornare in Libia, il desiderio più grande era quello di tornare nella casa dove ero nata. Cioè, sai, un sogno tornare, però chiaramente il divieto per i nativi era stato emesso e nulla. Non mi sono perso mai una fiera internazionale, la BIT. Tutte le edizioni sono andate. Andavo sempre, puntavo al padiglione della Libia per vedere se c'era qualche cambiamento, qualcosa. Niente, ospitali sempre, ma il cambiamento non c'è mai stato. E poi, nel 2009, finalmente si torna! L'emozione che ho provato è stato proprio quando sono arrivato all'aeroporto. Tutto il viaggio, sai, pensi, ricordi, penso di trovare questo, trovare quello. Siamo arrivati all'aeroporto, ci ha fatto attendere un attimo sull'aereo. Siamo arrivati di fronte a una porta vetro che era chiusa. Ecco, lì ho iniziato a vivere l'emozione, che se penso, mi viene ancora qualche... Proprio ho cominciato a sentire palpitazioni, respiro corto, pelle d'oca. Ecco, dopo lì mi sono calmato, ho detto, oh, per adesso siamo in Libia. Dopo ho aperto la porta, ho cominciato a sentire parlare arabo. Mamma mia, qualcuno vestito ancora con il loro abito tradizionale. Un altro momentino è stata l'attesa per il visto, il primo visto che ci portavano sul passaporto. Lì ci hanno tenuto forse più di 50 minuti, ho detto, sta a vedere che qui c'è qualcosa che non va, ci rimangono indietro. Sì. Ci è andato bene, quando ci hanno dato il passaporto ognuno suo ci hanno detto benvenuti, proprio lì è stato bellissimo. Sono stata accolta dai locali che abitavano nella casa dove io ho vissuto e dove sono nata, ma con una gioia veramente inaspettata mi hanno accolta. Addirittura volevano che fossi loro ospite, perché il capo famiglia si ricordava ancora di mio padre. Io ho incontrato un signore che si ricordava di me. È stata una cosa, era un venditore di spezie, cioè, intanto che compravo spezie parlavo in italiano con lui e lui mi diceva, ma tu hai vissuto qua? Dico, sì, io sono nata qui. Ma tu ti ricordi il Baragiola? Il Baragiola era un punto di ritrovo, era un bar dove noi giovani ci ritrovavamo, ci davamo appuntamento, che ne so, per andare al cinema, per andare a ballare, ci si ritrovava, era il nostro punto d'appoggio. E lui aveva, il padre aveva un negozio di spezie di fronte a questo bar. E lui era ragazzino come me allora, era un giovanottello, e lui mi ha detto, adesso ti dico una cosa, vediamo se ti ricordi. Dice, tu venivi a comprare spezie al bar, al negozio di fronte al bar? E io ho detto sì, tutte le volte che mi capitava di essere in città. E lui ha detto, ti ricordi del ragazzino che c'era dietro il banco insieme al padre? Sono io. Ho trovato della gente veramente che ci ha accolto con molto piacere. Quando ho trovato il mio arabetto che abbiamo fatto, andavamo a pascolare le capre e le pecore assieme, e io gli ho insegnato un po' a scrivere, a leggere, insomma. Insomma, degli arabi, si ricordano i nomi di tutti noi, cose che io non ricordo. Invece loro si ricordavano dei Sant'Antonio, dei Pacelli, dei Zerbatto, di questo, di quello. Tutti, e ti dicevano i nomi di tutta una famiglia, di 6 o 7 persone. Insomma, ci ricordano proprio con tanto piacere, veramente, tutte quelle fatiche che abbiamo fatto noi per fare le piantagioni di uliveti, aranceti, vigneti, tutte queste piante sono state tutte distrutte. Questi poderi che se continuavano, noi gli abbiamo lasciato dei terreni non da iniziare, non già rendevano. Bastava che soltanto andassero avanti con quello che gli avevamo iniziato noi. E invece hanno abbandonato tutto. E tutto come quando siamo andati noi là. E di fatica ne abbiamo fatte tante. Tutta quella fatica che abbiamo fatto noi è stata nulla. Ma guarda, io ho una nostalgia incredibile. Io ritornerei anche domani là. Forse non per viverci, ma ci vado volentieri per vedere tutto quello che abbiamo fatto, strade, case, città. Insomma, mi sento un po' libico, come dice lei. Per quanto riguarda invece il risarcimento a seguito della confisca di beni, dopo più di 40 anni si sta ancora aspettando. C'è tempo! Nel 1983, intanto, si era strappata una legge per il riscatto gratuito dei contributi versati in Libia. Oh, una cosa alla volta! Per cui dal 70 all'83 i pensionati che hanno fatto campavano d'aria? Aria. Sì, aria. Ah, dunque niente indennizzo, no? Niente indennizzo. Niente indennizzo, niente di niente. Calma, prima bisognava fare bene i conti, sapere quanto valevano i beni lasciati. Se li sono fatti da soli i conti, rimpatriati, attraverso la loro associazione, ma è servita a qualcosa? Qualche briciola è stata distribuita. 17 dicembre 2010. La Tunisia inizia ad essere percorsa da sollevazioni di piazza contro il regime di Ben Ali, in carica da 23 anni. 25 gennaio 2011. 10.000 persone, dice il ministro degli interni, 25.000 sostengono gli organizzatori, un numero comunque enorme, esorbitante, inimmaginabile. Occupa piazza Tahrir al Cairo per manifestare contro la trentennale presidenza di Hosni Mubarak. 17 febbraio 2011, Bengasi, Libia. Si accende la rivolta contro Muammar Gheddafi da 42 anni al potere. È un tam-tam, un richiamo, un rincorrersi di appelli, un prendiamoci la piazza. Rivoluzione, rivoluzione, rivoluzione. Il Nord Africa vuole impadronirsi di un destino dei caratteri comuni. Diciamo che il paese, diciamo, ha appena finito una liberazione da una tirannia assoluta. E quindi è normale che ci possano essere, diciamo, problemi di vario genere. Quindi in Libia non esistevano istituzioni, esisteva solo un soggetto che è Gheddafi, che dava, diciamo, le sue leggi, a volte non scritte. Allora, la questa rivoluzione è nata perché nel 96 Gheddafi aveva arrestato dei giovani libici perché avevano idee diverse, insomma, qualcuno religioso, qualcuno aveva anche idea tipo comunista, e ha arrestato 1.270 giovani. E questi, i parenti di questi giovani qua andavano a chiedere sempre, volevano vedere i loro figli e non riuscivano a vederli perché erano... Notizie di loro. Notizie, niente. Poi abbiamo sentito poi allora che li ha in pratica massacrati tutti, li ha ammazzati tutti questi giovani in un pomeriggio. Infatti si chiama il massacro dei 1.276 prigionieri politici a Tripoli. I parenti di questi prigionieri hanno messo un avvocato per difendere i loro diritti, insomma, anche i risarcimenti. Questo avvocato, che oggi fa parte del governo transitorio, Gheddafi l'aveva arrestato a Bengasi. Allora tutti i parenti di quei prigionieri, 1.200 i parenti di questi qua, sono andati a chiedere la sua liberazione. E alla fine l'hanno liberato, di sera, il 15 febbraio 2011. Allora loro, tornando a casa con questo avvocato, hanno fatto delle slogan contro Gheddafi. No? Cade il regime. Cade il regime. Siamo, Allora loro l'hanno sparati e hanno ammazzato due persone di questi qua, ancora, oltre al 1270. Il giorno dopo, nel funerale di questi giovani, due giovani, uscivano altri giovani con i manifesti, con questi funerali, e hanno detto ancora altri slogan contro Gheddafi. E allora davanti la caserma di Bengasi, Katiba, che è famosissima a Bengasi, li hanno sparati così alla folla e hanno ammazzato 15 giovani. Uno della Libia, un ragazzo di, un signore di Bengasi, quando ha visto questi morti cadere, ha preso la sua macchina, ha messo due bombole di gas e è andato contro questa katiba, questa caserma, è entrato auto, ha fatto il kamikaze proprio. È entrato dentro contro il portone e l'ha aperto per e allora tutti, poi il popolo è entrato e è nata poi la rivoluzione. E questa è come è nata la rivoluzione libica. E questo è successo a Bengasi, però quello che è successo a Bengasi ha fatto male molto a Tripoli, a Zawia, a Zintan, che dappertutto sono sentiti, insomma, il sangue uno, insomma, alla fine, il sangue dei libici è uno. Così, poco più di un anno fa, dall'altro lato del Mediterraneo si sono sognati di cambiare il mondo. No, hanno fatto un sogno che rimbalza nei social network, un sogno che cresce, si definisce, prende contorni via via più netti, un sogno che va organizzato. Se fino a ieri il dissenso non aveva parole, aveva paura di trovare delle parole, le allontanava, le escludeva dalla mente o dal cuore, perché chissà mai che un poliziotto in borghese o una spia in agguato ci possano guardare nella mente o nel cuore. Ora il dissenso esplode, come se tutti quegli anni di silenzio si fossero alleati per detonare insieme nel cuore della piazza. 17 marzo 2011. La risoluzione 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite chiede per la Libia la fine delle violenze contro i civili e autorizza mezzi di protezione della popolazione. Impone una no-fly zone e congela i beni delle autorità libiche. 19 marzo 2011 ha inizio l'intervento militare sotto la guida della NATO. 25 agosto 2011. Su Gheddafi viene messa una taglia di $1.600.000. 16 settembre 2011. L'ONU riconosce il Consiglio Nazionale di Transizione presieduto da Mustafa Abdel Jalil. Ah! Cosa? L'ex ministro di giustizia in carica dal 2007? Sì. Non una faccia nuova, insomma. No. 20 ottobre 2011. Gheddafi è ucciso a Sirte. Ancora date. Dai, basta! Giugno 2012. È previsto che si terranno in Libia le prime elezioni democratiche. Finito con le date? E che cosa c'è che non va con le date? Vorresti forse dare un'interpretazione dei fatti? Non ci penso neanche. Solo che alle date vorrei aggiungere dei dati. Per esempio, durante la rivoluzione civile libica, la produzione di petrolio è crollata vertiginosamente. Per la legge della domanda e dell'offerta, diminuendo la produzione, il prezzo sale. Poi, che il numero delle vittime è imprecisato, ma è impressionante. Si parla, nella peggiore delle ipotesi, di 30.000 morti e 50.000 feriti. Vorrei poi dire che, come in tutte le guerre, c'è chi va in prima linea e chi resta nelle retrovie. Vorrei dire che, come in tutte le guerre, c'è chi perde la vita, o un braccio, o una gamba, o anche tutte e due. Vengono chiamati quelli che non hanno niente da perdere. E ci sono quelli che hanno solo da guadagnare. Vorrei dire che, come in tutte le guerre, c'è chi uccide, chi muore, chi non si sporca le mani e chi si sfrega le mani. Vorrei dire che, come in tutte le guerre, c'è chi perde un figlio o la moglie o il padre e chi non perde niente, nemmeno la voglia di fare la guerra. E vorrei dire ancora, futuro. Io vorrei dire che speriamo che si cominci una pagina nuova con Italia e Libia, una pagina, apriamo una pagina nuova, scriviamo un atto di amicizia vera, senza pacciamano, tutto tranquillo, leale.